Ed eccoci qui, benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano. Sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Il contatto telefonico è 06 49 17 50. Parigi before us, nobody can be against us. If Jah is for my people, I don't know who can try, who can try to be my enemy. My Africa want to be free. Africa, Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? Oh, Africa, Africa, Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? As I know your system is a block. Insieme fino alle 18, e vi ricordo anche che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete sostenere questa radio, il conto corrente postale è il 6180 4001, intestato alla cooperativa Laboratorio 2001, Via Le Volsci 56, Roma. Nel corso della trasmissione proveremo a fare dei collegamenti con alcune situazioni di mobilitazione, come la manifestazione ad Albano contro l'inceneritore e poi a Livorno, dove c'è una controversa commemorazione della battaglia di El Alamein. E questo sabato faremo un percorso attraverso la scena musicale del Kenya dagli anni 60 agli anni 80. E cominciamo il nostro viaggio attraverso la scena musicale keniana con un gruppo che si chiama gli Yaos. We'll be right back. Gli Yells erano un gruppo appunto che veniva dal Kenya, un gruppo che ha provato moltissimi generi che vanno dal funk al tarab, il brano Mabala. E allora il Kenya ha una fortissima tradizione musicale, ma effettivamente la musica diciamo moderna keniana comincia intorno agli anni 50, quando da Lumumbashi, che è nello Zaire, ex Zaire orientale, cominciano a venire dei chitarristi come Jean Bosco Mwenda, che cantavano in Kisha Swahili, nella lingua appunto franca dell'Africa orientale, che viene parlata in Kenya, in Tanzania, arriva fino al Burundi. E allora i chitarristi keniani si ispiravano a questa tipologia di questo genere musicale, che aveva molto a che vedere con la rumba, ma appunto cantata in Swahili. E a Nairobi era diventata il centro, il perno dell'industria musicale in Africa orientale. E ci sono, la scena musicale keniana è molto divisa dal punto di vista etnico, perché le due popolazioni maggiori sono i Luo e i Kikuyu, e quindi c'è un genere musicale legato appunto ai Kikuyu e un genere musicale legato ai Luo. Ma ci sono anche dei gruppi che vanno oltre, pur appartenendo a una di queste due etnie, come era il caso della Rift Valley Brothers. Loro sono Kikuyu, ma il brano che ci ascoltiamo è Mu Africa, un brano legato ai temi del movimento per la coscienza dei neri, e soprattutto i temi legati anche alla lotta dei Mau Mau. E allora ce li ascoltiamo. Parliamo del 1970, si chiamano i Rift Valley Brothers e il brano è Mu Africa. Una corrispondenza da Albano, dove si sta tenendo la manifestazione. Pronto? Allora, mi sembra che non ci sente. Pronto, mi senti? E allora proviamo a richiamare il compagno che era lì ad Albano, appunto manifestazione contro l'inceneritore. Allora ci riproviamo, pronto? Pronto? Niente, purtroppo la corrispondenza c'è un po' di difficoltà, comunque adesso nuovamente riproveremo a richiamare il compagno lì ad Albano. Tentiamo appunto di ricollegarci con Albano, dove c'è la manifestazione contro l'inceneritore. Ricontinuiamo un po' questo percorso per quanto riguarda appunto la scena musicale keniana, e diciamo che la zona, soprattutto quella vicino alla costa, era diventata molto turistica, la zona per esempio di Mombasa, e c'erano molti gruppi che suonavano negli alberghi, un po' come dire ripetendo gli stili della musica funk e soul americana. Uno di questi gruppi era sicuramente i Mombasa Viking, che hanno costruito un vero e proprio genere musicale che si chiama il Shaka Shaka Rhythm, inserendolo in un contesto appunto soul e funk. E allora i Mombasa Viking ce li ascoltiamo, siamo nel 1975 con questo brano, Kibe Kibe. Allora, Onda Rossa, 16:55 in diretta ad Albano, ce l'abbiamo fatta, pronto, mi senti? Benissimo. Allora, raccontaci un po' la manifestazione, come sta andando? Mi hai detto che siete partiti da circa una mezz'oretta, com'è l'afflusso delle persone? Come sta andando? Sta andando bene, confermiamo i numeri delle precedenti mobilitazioni, ci sono più di 1500 persone, e il corteo sta sfilando per sull'Appia, sul Corso d'Albano, e sono in corso i consueti interventi che spiegano la piattaforma di mobilitazione della manifestazione di oggi, e sono riassumibili con interventi, interventi che le istituzioni, quindi condanna del mancato intervento delle istituzioni su quello che riguarda i controlli della discarica, e poi la volontà di proseguire la mobilitazione e di confrontarci e andare a parlare con il Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda i fondi pubblici per l'impianto di Cerimea. Questi sono più o meno i due punti più importanti che vertono la manifestazione. Senti, c'è stato anche un problema ultimamente di appunto gente intossicata e poi diciamo così Cerroni è ripartito alla carica con gli sgravi rispetto appunto ai fondi per l'inceneritore, quindi ci sono state un po' delle cose che hanno smosso la situazione. Sì, purtroppo qua in questo territorio il settimo invaso, quello che ospita anche parte dei rifiuti di Roma, è ormai al collasso, è saturo, e la vicinanza con le abitazioni che avevamo denunciato più di 3 anni fa, più tutta la vicenda dei versamenti da Roma, stanno producendo una situazione ambientale, sanitaria, catastrofica, che produce malesseri nel corso di pochi minuti e che ha riacceso la mobilitazione proprio su questa discarica che tanti problemi avrebbe causato alla popolazione. E quindi proprio da questi malesseri pretendiamo che le istituzioni prendano atto del fatto che lì c'è un problema sanitario e cominciano a disporre degli interventi che sono a norma di legge e che invece adesso sono totalmente assenti. Bene, senti, la manifestazione fino a dove arriva? Mi hai detto che insomma è piuttosto partecipata, quali sono anche le componenti? Insomma, il comitato è riuscito ad aggregare anche insomma tessuti sociali che fino adesso sono rimasti un po' come dire ai margini della mobilitazione. Allora, la manifestazione arriva fino a Piazza d'Ariccia e ci sono iscrizioni del coordinamento degli inceneritori, alcuni comitati di quartiere, dei comitati locali, dei residenti che richiedono intorno alla discarica di Conciliano, e iscrizioni dei comitati che vengono dal resto del Lazio. In particolare c'è una delegazione della Molta da Falcone. Scusa, ti interrompo perché si sente poco, forse devi staccare un po' dal telefono perché si sente poco. Allora, riprova un attimo a riprendere a parlare. Dati fuori di altre realtà regionali, in particolare della Falcognana, che è stata solo 9 km sulla Senina dalla discarica di Rossigliano, e niente, il problema del smaltimento dei rifiuti nel Lazio è evidentemente un problema che i comitati devono affrontare in maniera diversifica e integrata, perché è la sfida che questi signori si pongono con proprio il fatto che investono tutta la regione del Lazio del problema dello smaltimento dei rifiuti, e quindi ribadiamo la solidarietà tra territori e l'assoluto fatto che rifiutiamo la portazione inibita della mobilitazione e che non vanno costruite discariche, inceneritori né ad Albano né in nessun altro territorio della regione. Bene, ok, ti ringrazio e poi magari se ci sono novità ci risentiamo. Ok, ciao. A tutti gli ascoltatori e ascoltatori. Ok, ciao. E allora, Radio Onda Rossa, Radio Africa, ore 17, abbiamo ascoltato appunto, come avevamo preannunciato, una corrispondenza da Albano, manifestazione contro l'inceneritore. E riprendiamo poi in previsione di una prossima corrispondenza con Livorno, la nostra selezione. Eravamo rimasti in Kenya e quindi ci siamo ascoltati questo gruppo che si chiamavano i Mombasa Viking, che suonavano soprattutto diciamo così negli alberghi per turisti. Siamo intorno agli anni 70, c'è un afflusso soprattutto sulla costa, appunto, di turisti che preferiscono ascoltare diciamo così generi musicali che sono vicini al soul e al funk, soprattutto afroamericano, ma anche in alcuni casi anche l'afrobeat. E ritorniamo nuovamente su su altri gruppi che invece partono dai ritmi tradizionali, ma in qualche maniera li arricchiscono anche con l'eredità dell'highlife. E il caso per esempio dei Loi Toki Tok, nel loro Warewa, è un gruppo appunto che suona questo brano è del 1972. Allora ce li ascoltiamo di nuovo. Toki Tok è una bella energia, appunto siamo in Kenya a metà degli anni 70 e dicevamo che c'era stata un'ondata di musica che proveniva dallo Zaire orientale intorno agli anni 50, che ha dato vita, diciamo così, a uno stile che veniva definito twist, uno stile molto diverso dal twist che insomma conosciamo, era un ritmo molto vivace, suonato con le chitarre, genere simile un po' al quela sudafricano, particolarmente appunto veloce. E poi ci fu una seconda ondata di musica zairese che arriva intorno alla fine degli anni 60, e si tratta di rumba appunto registrata nelle lingue locali, soprattutto il Kishwahili, che consente poi a chi ascolta di capire anche i testi, che, perché appunto lo Swahili era la lingua franca dell'Africa orientale, che viene chiamato Benga, che si diffonde soprattutto fra i Lua, ma lo sono anche i Kikuyu in realtà dei fatti. E il Benga è caratterizzato poi da questa accelerazione finale strumentale, come a dimostrazione della potenza, diciamo così, delle chitarre. Questa è la scena che si definisce intorno agli anni 70. E allora vediamo un po' un altro gruppo che alla fine degli anni 70, fra il 77 e il 78, è molto attivo, ed è un gruppo che viene dalle zone rurali, perché accadeva che, per esempio, soprattutto nel momento in cui il Nairobi diventa il centro della produzione musicale keniana, molti musicisti che provenivano dalle aree rurali arrivavano a Nairobi in autobus, prendevano accordi con il produttore, entravano in studio, registravano e poi si tornavano a casa. Dopo una settimana il disco era pronto. All'inizio si stampavano 50 copie, ma ci sono gruppi che sono arrivati anche a stamparne 10.000, che per il mercato keniano insomma era importante, considerando che poi in quel periodo, parliamo appunto a fine anni 70, cominciava anche la radio e la televisione, e quindi insomma i veicoli attraverso i quali la musica circolava si ampliavano. E allora torniamo a questo gruppo, i Lulus Band, e ci ascoltiamo questo Matumia Murin. Allora, 17:10 all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. Un saluto alla piccola Flavietta e a sua mamma. E allora, 17:10, dicevamo, adesso andiamo ancora avanti con le nostre selezioni. Il nostro percorso era appunto attraverso la scena musicale del Kenya intorno alla metà degli anni 70. Ritorniamo nuovamente sulla costa a Mombasa con i Mombasa Viking, che la scena musicale era influenzata anche dall'afrobeat di Fela Kuti, e questo era inevitabile perché appunto l'afrobeat era ascoltato in tutta l'Africa. I Mombasa Viking ci danno un esempio di questa influenza con questo brano Moma Matonga. Allora, appunto, ancora le nostre selezioni, ancora sulla scena musicale keniana, e loro hanno questo genere musicale che appunto viene influenzato anche dall'afrobeat. C'erano molti artisti che, finché non è stato chiuso poi il confine fra il Kenya e la Tanzania nel 1977, venivano a suonare a Nairobi, e molti artisti che provenivano dalla Tanzania, e un gruppo che è sicuramente stato molto importante da questo punto di vista sono stati gli Afro 70. Chance alone, dance on until you cry. loro erano gli Afro 70 con questo Afro USA Move Un, è il brano, e loro provengono appunto dalla Tanzania, quindi molti artisti passavano il confine, perché appunto a Nairobi c'erano gli studi musicali, c'erano anche, si concentrava praticamente a Nairobi in particolare in un quadrilatero che aveva come centro River Road, un centinaio di negozi di dischi, ma anche, anche appunto piccoli produttori musicali che facevano, stampavano copie di vinili. E la città di Nairobi era diventata un po' il centro per quanto riguarda la produzione musicale dell'Africa orientale, questo fino a metà, fino alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quando da una parte ci fu insomma una crisi economica molto forte, dall'altra anche l'arrivo appunto di flussi musicali provenienti dallo Zaire e dal Congo, e quindi la produzione musicale autoctona un po' venne meno. Ma continuando il nostro percorso, ci sono stati anche degli artisti che comunque sono stati conosciuti all'estero, in Europa, in America. È il caso di Slim Ali e i Famous Odie Boys, che sono stati i primi, diciamo così, a cominciare a suonare con il twist, ma poi appunto si sono decisamente evoluti. Il brano che ci ascolteremo è Batuto Niara e risale al 1976. Slim Ali è un artista che, grazie anche al fatto, diciamo così, di presentarsi in una certa maniera, è riuscito anche a entrare nelle grazie di quella parte del Kenya che è più orientata verso una cultura musulmana, come il caso per esempio dei musicisti che fanno Taarab, perché appunto il Kenya ha avuto anche delle influenze, soprattutto per quanto riguarda la parte che dà verso il Mar Rosso, influenze che provenivano dall'Oriente. E allora ci riascoltiamo, loro appunto sono Slim Ali e i Famous Odie Boys. pinches en goma. Viste na pinches en goma. Goma que tu chamana. Goma, goma. Slima Lee, il famous Odi Boys, Ngoma Ngoma è il brano, è la musica tradizionale che loro interpretano, però è estremamente attraversata dalle sonorità afrofunk. Allora 17:24 all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. Allora dicevamo che dai confini con la Tanzania appunto molti gruppi tanzaniani venivano a suonare in Kenya e fra questi sicuramente i Vanicà, e i Vanicà ebbero molto successo nonostante appunto fossero provenissero da un altro paese, innanzitutto perché appunto cantavano sempre nella lingua franca lo Swahili e poi davano un'interpretazione della rumba, perché anche loro erano stati influenzati dalla rumba congolese che però insomma piacque moltissimo soprattutto con il brano Sina Makossa. sina makosa we bwana, sina makosa we bwana. Vanicas e loro con questa interpretazione della rumba congolese in salsa Swahili vanno avanti per altri 9-10 minuti, 17:29, questa è sempre Radio Onda Rossa, Radio Africa. Vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. E a proposito appunto di questa interpretazione della rumba congolese, che poi insomma da quelle parti si chiama Benga, dei giganti della musica dell'Africa orientale, loro sono il supergruppo Super Mazembe e il brano che ci andiamo ad ascoltare è Kasongo. Tuna kangai, tuna kangai. Super Mazembe, e poi con questi riff di chitarre alla fine del pezzo che accelerano moltissimo il ritmo e ricordano molto anche la versione accelerata della rumba congolese, cioè del Soukous. E andiamo ancora avanti in questo nostro percorso attraverso la scena musicale keniana fra gli anni 60 e la fine degli anni 70, inizio anni 80. Andiamo a incontrare i Lulus Band, loro fanno parte di quella scena musicale Kikuyu, e soprattutto l'interprete è D.K. Mwawi, che è uno dei maggiori esponenti appunto di questa scena musicale, legata fondamentalmente al gruppo etnico dei Kikuyu, perché appunto, come abbiamo già detto, il Kenya si divide sostanzialmente fra Kikuyu e Luo. E allora il brano Nanafu, che risale al 1976, fu censurato dalla radio di Stato perché appunto i suoi testi erano piuttosto osceni per l'epoca. Thank you. maito Digangu jadio nana Korodora nye tajera Totika yuko ne maito Tudi mpezi nana Baridi nani uwa Kamtumi maira Tudi mpezi nana Baridi nani il brano Nana dei Lulu's Band, veramente potente. 17:39 all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa 87.9 e la modulazione di frequenza. Allora, un altro gruppo, uno fra i più vecchi della scena musicale keniana, è i The Maroon Commandos, formato nel 1978 ed era sotto gli auspici dell'esercito keniano ed è che intratteneva gli ufficiali e i soldati ed è stato l'unico gruppo musicale nell'ambito appunto dell'esercito che è rimasto molto estremamente popolare fino al 1971, quando in un gravissimo incidente stradale morirono gran parte dei componenti del gruppo, che si riformò poi nel 1976. E allora, gruppo, come dicono quelli colti, seminale per quanto riguarda la scena musicale keniana. Ci ascoltiamo questo brano che si intitola Charoni Nivasi, con diciamo così degli echi un po' latini. Radio Onda Rossa, allora la corrispondenza che avevamo annunciato in diretta con Livorno, dove è in corso appunto la celebrazione, si fa per dire, della battaglia di El Alamein. Pronto, mi senti? Sì, sì, mi sento. Allora, dici un po', insomma, come si sono organizzati i compagni, gli antifascisti, per contrastare questa manifestazione sostanzialmente di revisionismo. Sì, si tratta proprio di una manifestazione alla fine fascista, perché raduna nostalgici, estremisti di destra, ex paracadutisti da tutta Italia. Come negli scorsi anni si è formato un comitato unitario di forze antifasciste, di movimento, cittadine, per portare in piazza l'opposizione appunto ad ogni fascismo, ad ogni revisionismo, ogni tipo di celebrazione nostalgica, ma anche contro la celebrazione della guerra, perché questa è anche una celebrazione della guerra, e anche contro ogni celebrazione di quella che è la rapina quotidiana che viene fatta a disoccupati, a lavoratori, con i tagli, con l'aumento dell'IVA, con i tagli ai salari e ai diritti, mentre aumentano costantemente le spese militari. Oggi siamo in piazza, siamo quasi 500, la manifestazione ha attraversato il centro cittadino, ora si sta concludendo di fronte alla rapide dedicata ai partigiani livornesi, e cominceranno gli interventi delle varie realtà. la valutazione comunque la manifestazione per ora è positiva, perché la partecipazione è buona anche se non alta come negli scorsi anni, ma dopo tutto anche la Brigata Folgore dei paracadutisti che organizza la commemorazione quest'anno ha puntato anche un po' al ribasso rispetto, prima facevano una commemorazione nello stadio, quindi occupando proprio degli spazi pubblici della città di più giorni, quest'anno invece sono tenuti più al ribasso, quindi sicuramente anche questo può essere anche considerato come un risultato delle manifestazioni degli scorsi anni sotto un certo punto di vista. Sì, uno degli aspetti per esempio è il fatto che si continua a spendere per le spese militari, per sostenere gli interventi militari all'estero, i cosiddetti interventi di peacekeeping, mentre invece appunto si continua a tagliare la sanità e le spese pubbliche. Certo, sì, anche la manifestazione quest'anno come negli anni scorsi è stata fatta anche a Pisa per lo stesso motivo, è incentrata anche su queste tematiche, infatti le striscione all'apertura basta era la main, basta spese militari, perché comunque riteniamo che sia centrale in questa occasione riportare proprio in piazza non solo la contestazione alla celebrazione ma anche la lotta quotidiana per la casa, per i salari, per il lavoro e chiaramente contro le spese militari che continuano ad aumentare. Ad esempio abbiamo citato negli interventi anche nel volantino la questione dell'aumento dell'IVA che poi andrà a pesare fondamentalmente su lavoratori, su disoccupati, che ammonta a 1 miliardo di euro e proprio ultimamente è stato finanziato comunque 975 milioni per acquistare nuovi macchinari elettronici, elicotteri, aerei dell'esercito da Finmeccanica per sostenere ancora quell'industria bellica che ha sempre sete di profitti in barba a quelli che sono invece tagli ai servizi, alla scuola e ai diritti di tutti. Bene, ok, ti ringrazio e niente, buona manifestazione. Grazie mille. Ciao. Ciao. Allora, Radio Onda Rossa 17:50, abbiamo ascoltato una corrispondenza da Livorno dove i compagni gli antifascisti si sono mobilitati contro la celebrazione dell'anniversario della battaglia di El Alamein che è avvenuta nel 1942 in questa zona, in questa cittadina che si trova in Egitto durante appunto la Seconda Guerra Mondiale. Morirono più di 5.000 soldati italiani mandati lì a morire dal fascismo. E appunto la Folgore, i paracadutisti e i revanchisti insomma ogni tanto si ricordano di questo anniversario e cercano appunto di ricordarlo e celebrarlo in una città antifascista come Livorno che appunto risponde con una mobilitazione. E allora sempre Radio Africa, ci sono fatti 10 minuti alle 18, continuiamo ancora con il nostro viaggio attraverso la scena musicale keniana. Dicevamo che ci sono molti artisti che provengono anche da altre parti dell'Africa che arrivano a suonare a Nairobi. Un gruppo molto diciamo così famoso all'epoca è l'orchestra Baba National, parliamo della fine degli anni 70, 1977 per la precisione, il brano che ci ascolteremo e allora guidati dal compositore Baba Gaston Va Ilunga che appunto era arrivato da un altro paese, dallo Zambia, diverso dal Kenya, ma che appunto lì ha trovato la possibilità di suonare, produrre e avere anche un certo successo. Sweet Sweet Mumba. Funny story from my village. Ah, when I find the mother, father, baby, all so crying for sweet. I ask my brother, I say, brother, what's happened with sweetie? My brother tell me, sweetie is a funny, funny thing for children only. So I say, children crying sweetie, mother, father, all so too. Ah, sweetie, sweetie, sweetie. Orchestra Baba Nacional. E allora si sono fatte le 17:58, Radio Africa si avvia alla conclusione per questo sabato, per lasciare i controlli a DJ Lenin e a Soul Peanuts. E allora ancora un ultimo brano da questa scena musicale decisamente interessante, che è quella della, appunto, del Kenya intorno alla fine degli anni 60, alla fine degli anni 70. Allora si chiamano i Nairobi Matata Jazz, Tumba Tumba è il brano, e anche loro sono un gruppo che ha cominciato a suonare alla fine degli anni 70 nei nightclub di Nairobi, ma poi si è fatto, diciamo così, la sua si è fatte le ossa e anche un suo pubblico, anche loro influenzati un po' dalla musica zairese, e ce li ascoltiamo, Nairobi Matata Jazz. E noi ci sentiamo sabato prossimo. Ni uno hace utana unonde Tamba tia senkoba tia semungu Machapati gona ntongwe Hayaya Ni uno hace utana unonde Tamba tia senkoba tia semungu Mholo gona ntongwe Hayaya Ni uno hace utana unonde Tamba Tamba tamba tia sekoba tia se mungu mzimu atate gona tongoe Ayaya ni unwa se utana unote Tamba tia sekoba tia se mungu machapati gona tongoe Ayaya.